nel settembre del 2017 la notizia del caso Gersi è esplosa a livello nazionale. Dico la notizia del caso perché si tratta a tutti gli effetti di un cold case. Gli articoli apparsi su diversi media nazionali all'epoca, a partire dal Corriere della Sera, raccontavano questa storia. Una tredicenne savonese, presunta spia fascista, viene brutalmente assassinata e stuprata dai partigiani garibaldini, e il movente di questo atto brutale sarebbe stato un tema elogiativo del Duce scritto da Gersi. Questa storia non tornava da diversi punti di vista, anzitutto per l'apparato iconografico con cui era corredata. Ci veniva mostrata la foto non di una tredicenne ma di una bambina intenta a fare la prima comunione. Questo dispositivo iconografico era evidentemente volto a infantilizzare la vittima, accrescendo il carico di brutalità che veniva ascritto a questo crimine. E poi non ci tornava il modo stesso in cui la notizia veniva raccontata. Il movente di un tema elogiativo al Duce pareva del tutto sproporzionato rispetto al crimine che ci veniva raccontato. Quindi così abbiamo cominciato a studiare questo caso, forti del lavoro proprio sulle narrazioni, potremmo dire, che avevamo svolto fino a quel momento. Ci eravamo accorti, studiando i casi più eclatanti, da Giampaolo Pansa fino ai casi più piccoli, come quello della foiba volante, che magari qualcuna o qualcuno di voi si ricorderà, di mistificazioni antipartigiane, ci eravamo resi conto che esisteva una topica, esisteva cioè un insieme di argomenti ricorrenti, di schemi argomentativi che, mutati i caratteri riempitivi, mutati i colori, mutato il contesto geografico ad esempio, e quindi si poteva andare dal confine alto adriatico all'estremo opposto al confine occidentale d'Italia, dal nord al sud Italia, però si ripresentavano nella loro schematicità sempre identici. Di lì abbiamo cominciato il lavoro che dopo 5 anni ci ha portato alla pubblicazione di questo libro. Cosa ci siamo proposti di fare? Semplicemente di prendere questo caso, prendere la notizia, già avevamo, come dire, evidenziato all'epoca nel post che era uscito su Giapp nel settembre 2022 e in un post successivo dedicato alla cultura dello stupro che poi riprendiamo nel libro, abbiamo deciso di reincastonare il caso singolo, la notizia giornalistica, nel contesto che veniva del tutto tagliato, come se fosse una foto dalla quale viene tagliato lo sfondo, ecco, mancava del tutto lo sfondo. Quindi noi ci siamo ripromessi semplicemente di fare un libro di storia, e questo è il risultato. È un libro che però, insomma, arriva alla conclusione che il caso Gersi è proprio una leggenda. Partiamo da questa premessa, che il lavoro dello storico, il mestiere di storico, se è fatto bene, è un mestiere nel quale ci si fanno delle domande, però senza conoscere la risposta in anticipo, altrimenti si scrivono dei libri a chiave. Quindi la domanda di ricerca che noi ci siamo fatti è: cosa dicono gli archivi, cosa dicono le carte del caso Gersi, cosa dicono i documenti che la narrazione neofascista, poi percolata senza filtri nel mainstream, non mette in luce, perché diciamo l'apparato documentale che veniva portato a sostegno di questo crimine partigiano è assolutamente nullo. Non c'erano, a parte le foto, non c'era niente. Cosa dicono gli archivi? La risposta, diciamo, sta nelle fonti. Che Giuseppina Gersi sia stata uccisa non c'è dubbio, questo è un dato indubitabile, ma questo, diciamo, è ovvio. C'è la tomba, c'è la lapide con la data di nascita e di morte, questo è indubitabile. Cosa non esiste invece? Allora, nei documenti d'archivio, che non sono molti ma sono comunque sufficienti per farsi un'idea, anzitutto non c'è alcun riferimento a uno stupro. Lo stupro è letteralmente una invenzione che fa capolino nella pubblicistica revanchista antifascista a partire dalla fine degli anni 80. Come una palladinese, questo questo elemento della narrazione fa ingresso nel racconto di destra sul caso Gersi in un libro di Massimo Numa che non rimanda ad alcuna fonte primaria e poi viene ripreso da tutta la pubblicistica successiva che non fa però neanche quella riferimento ad alcun documento, rimanda a Numa, quindi diciamo c'è la letteratura cosiddetta secondaria che rimanda a se stessa. Cosa non esiste? Non esiste il famigerato tema al Duce. Esiste, diciamo, una lettera che Giuseppina Gersi invia alla segreteria di Mussolini, in cui, diciamo, si esercita retoricamente con un certo fanatismo sul tema di destino fatale di Roma, mostrando quanto fosse imbevuta della propaganda, ma come dire, come molti italiani cresciuti negli anni 30, a cavallo tra gli anni 30 e 40, questa letterina ha una risposta standard da parte della segreteria di Mussolini che è conservata, perché c'era un'indicazione specifica data da Mussolini in persona di attestare, ovviamente con risposte stereotipe, formulari, il ricevimento di tutte le lettere che giungevano alla segreteria del Duce e come tutte le altre lettere, anche questa viene come dire, letta e si dà conto di essere stata vista e che la segreteria ha risposto. Questo c'è nei documenti, ma ovviamente non c'entra nulla con il movente dell'omicidio, che non è questo tema elogiativo del Duce, che non esiste, esiste una letterina. Il movente è che Giuseppina Gersi era una spia fascista. Non ci deve sorprendere la giovane età di Gersi, che doveva compiere 14 anni, perché questo il contesto, come dire, lo elide completamente. A 14 anni, nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale, si poteva, non era affatto raro, che si militasse da una o dall'altra parte del campo. Ovviamente questa cosa è molto ben presente nella cultura italiana, perché ci sono immagini anche letterarie, pensiamo a Calvino, a Fenoglio, di giovani fascisti e di giovani partigiani, ma si fatica a trasporre dal piano della letteratura al piano della realtà questo dato, salvo che quando i fascisti vengono uccisi, vengono eliminati, come nel caso di Gersi, allora il meccanismo che scatta è il meccanismo della infantilizzazione, come dicevo prima, anche per il tramite dell'apparato iconografico, mentre dall'altra parte gli assassini di Gersi, ma in generale tutta la vulgata antipartigiana, rappresenta i partigiani come i partigiani che sono ora, o che erano, sono negli anni 80-90, cioè delle persone già adulte, già anche di una certa età, che infieriscono su una ragazza indifesa, come in questo caso. Ecco, in realtà questo doppio movimento che infantilizza da un lato e adultizza, se mi passate il neologismo, dall'altro, non tiene conto che in realtà a scontrarsi dall'una e dall'altra parte non era affatto raro che ci fossero delle persone dell'età di Gersi. Poi appunto nel corso della presentazione ci sarà modo di approfondire ulteriormente questi temi, quindi non spoileriamo troppo, però ti voglio fare una domanda più generale, insomma, cioè hai raccontato di un caso in cui la narrazione postuma ha distorto e arricchito con brutalità una storia appunto di questo tipo. Qualche anno fa Nicoletta Bourbaki aveva pubblicato una sorta di manuale di autodifesa per come approcciare i testi storici, la ricerca delle fonti, chi scrive, cosa ci vuole comunicare, insomma un manuale molto utile. La tua impressione è che queste narrazioni antipartigiane comunque abbiano presa? La risposta positiva a questa domanda è proprio data dal caso di studio che abbiamo scelto di affrontare nel 2017. Noi veniamo a conoscenza di questo caso perché c'è una notizia di attualità, cioè c'è la volontà da parte di Forza Nuova di apporre una targa commemorativa di Giuseppina Gersi e la notizia viene ripresa sui grandi giornali, a partire dal Corriere, come dicevo. Quello che noi constatiamo già da allora e che poi ci viene confermato da tutte le ricerche successive è che la versione che approda al Corriere della Sera sul dubbio allora diretto da una vecchia conoscenza della sinistra italiana, Piero Sansoni, è esattamente la versione neofascista della narrazione Gersi, della storia di Gersi, è la storia neofascista della storia di Gersi, senza alcun filtro. Ciò che era appannaggio della propaganda d'estrema destra finisce sui media nazionali. Il fatto che non sia scattato nessun filtro critico dà la misura di quanto le operazioni mirabilmente, si fa per dire, esemplificate dai libri di Gianpaolo Pansa e degli epigoni abbiano sfondato, e che prima erano appannaggio dei nostalgici alla Giorgio Pisanò, abbiano sfondato il muro della destra per imporsi senso comune. La guida didattica a cui tu facevi riferimento, che è apparsa nel 2018, era il tentativo di ripristinare quei filtri critici che la tenuta di un argine antifascista fino all'inizio degli anni 90 non rendeva necessario esplicitare, perché in qualche modo facevano parte di una coscienza latamente politica abbastanza condivisa, e che invece lo sfondamento del sangue dei vinti e tutto ciò che si è portato dietro e di cui è a sua volta il prodotto, perché non nasce dal nulla, ha reso di nuovo necessario ribadire, facendo in realtà una cosa molto semplice, cioè dando elementi basilari di come si fa ricerca storica, perché nel momento in cui una cosa cessa di essere senso comune, quindi cessa di essere attuale, diventa storia, quindi bisogna approcciarla coi mezzi della storiografia. E questa cosa è terreno per gli specialisti, è terreno per gli storici, ma non è che uno nasce storico, uno storico lo può diventare. Quindi anche a un livello molto superficiale, il metodo critico, che è poi il metodo che consiste nell'approcciare dubitativamente, anche se non scetticamente, alle fonti, beh, quello lo possono fare tutte e tutti, lo possiamo fare anche noi. Tra l'altro noi Nicolette Burovacchi non siamo tutte e tutti storiche e storici. Io per esempio sono un giurista, sebbene non storico del diritto, ma comunque un giurista. Ci sono scrittori, ci sono filologhe, ci sono storici di mestiere, però è proprio questa complementarità di prospettive che ci consente di captare gli elementi stonati dentro una narrazione.